5G. Ascolta e replica. Molto tempo fa io ricevei da lui un pacco. Anche noi ricevemmo da lui un pacco. Molto tempo fa io ricevei da lei un'email. Anche noi ricevemmo da lei un'email. Molto tempo fa io ricevei da loro un SMS. Anche noi ricevemmo da loro un SMS. Molto tempo fa io ricevetti da lei un regalo. Anche noi ricevemmo da lei un regalo. Molto tempo fa io ricevetti da lui una raccomandata. Anche noi ricevemmo da lui una raccomandata. Molto tempo fa io ricevetti da loro un bel dono. Anche noi ricevemmo da loro un bel dono.